Grazie Gian, anche su questo possiamo sicuramente ritornare quando parliamo degli approfondimenti, ci saranno domande dal pubblico che ci sta ascoltando. E passo subito la parola al prossimo contributo che sempre in base a questo bellissimo poster che gli amici di Tiramid hanno preparato è Malachi Mulligan, che come alcuni vulcanari ho avuto il privilegio di incontrare anche in First Life recentemente. Malachi, quindi se ci sei, batti un colpo e comincia a dare il tuo contributo. Sentite intanto? Sì, forte e chiaro. Bene, grazie. Bene, grazie. Allora, io mi scuso se farò forse un discorso un po' più lungo di quello che avrei dovuto, ma sono messo a scrivere, sono stimolato da David, da questa interessantissima serata, mi sono messo a scrivere un po' le mie riflessioni sul tema e probabilmente non ho badato molto alla lunghezza e ai tempi, però cercherò di sintetizzare il più possibile. Quello che vedete, lo giro verso di voi, comunque per spiegare la telecamera, questa è una, se volete, la mappa concettuale del discorso della chiacchierata che vorrei proporre. Su ogni nodo ci sono un po' le idee, i concetti che rappresentano, che seguono il filo del discorso, che si svolgono durante il discorso. E partiamo dal nodo principale, che è il nodo giallo in alto, dove, se andate vicino con la telecamera, potete vedere una frase scritta dentro, che è il titolo del mio intervento: la singolarità nel metaverso. Se cliccate sulla mappa mentale, verrete indirizzati ad una pagina internet, ad un URL, che è la pagina del mio bellissimo blog, che da qualche settimana sto cercando di tenere aggiornato, dove ho già inserito il testo completo della mia chiacchierata di questa sera. Ma l'idea, provo a leggere e poi a sintetizzare le parti che posso saltare o comunque comprendere un pochino. Parto dalle conclusioni, e cioè queste, che io mi sento istintivamente vicino alla scuola di pensiero che considera in modo estremamente favorevole l'avvento del metaverso in quanto tale, e anche la possibilità che il metaverso, Second Life, ma soprattutto le sue evoluzioni, diventi una sorta di contenitore della singolarità tecnologica, e cioè, per dirla con un'immagine che c'è cara dalle nostre parti, che il vulcano della singolarità esploda dentro il metaverso. Perché, a mio avviso, essendo un fenomeno esponenziale, l'avvento della singolarità sarà un evento esplosivo, deflagrante, e dobbiamo quindi costruire per tempo una immensa sandbox in grado di assorbire senza scossoni l'enorme quantità di energia che sarà liberata, in modo tale da poterla utilizzare tutti assieme per far compiere un salto quantico alla curva evolutiva della civiltà umana. Ma come scrivo anche nel blog, questa premessa forse è un po', diciamo, sulla tangente, mi sono fatto un po' prendere dalla metafora. Quindi ritorno con i piedi per terra e procedo per gradi, quindi vado a esplorare i nodi successivi del tema. da una parte il metaverso e dall'altra parte la singolarità tecnologica. Partiamo dalla singolarità tecnologica. Sul blog vedete citato il link di Wikipedia che già David ha proposto come punto di partenza. Io non sono in grado di dire nulla di nuovo sulla singolarità. Molte altre persone, molte altre intelligenze, quelle che così simpaticamente a me piace chiamare NGI, cioè Natural General Intelligence. Molte altre intelligenze prima di me hanno parlato, raccontato, scritto attorno a questo tema. In questa sede io ripropongo alcune celebri frasi, alcune celebri affermazioni formulate dai padri fondatori di questa nuova area di ricerca. Nel blog potete vedere diciamo, le citazioni che ho riportato, ma sono quelle assolutamente comuni. Quella del 1958 di Ulam, che riferisce di una conversazione con von Neumann, dove a quanto pare lo stesso von Neumann utilizza il termine singolarità per indicare l'avvicinarsi di una qualche fondamentale singolarità nella storia della razza, oltre la quale gli affanni degli esseri umani, come noi li conosciamo, non possono continuare. E questa è un po' una citazione storica. Quindi, ed è anche ottimistica perché vede. Feynman, bello, perché vede la singolarità come un punto oltre il quale l'umanità arriva ad una condizione migliore, ad una condizione con minore affanno. Quindi andiamo avanti. La seconda citazione, quella del 1965 di Good, che è spesso citata come l'esplosione dell'intelligenza, cioè l'idea che una macchina ultra intelligente, essendo in grado di progettare altre macchine, un po' sulla scorta dell'esempio del segnale debole che prima ha citato David relativo alla progettazione dei microprocessori, quindi una macchina ultra intelligente può essere in grado di migliorare continuamente il proprio progetto e quindi di disegnare, di ingegnerizzare delle macchine ancora più intelligenti. E questo dando luogo ad una progressione infinita, e cioè ad una vera e propria esplosione di intelligenza. Poi, è importante riprendere il concetto di Werner Winge del 1993, e lo vedete sempre nel mio blog, ma è dove c'è anche il link all'articolo, al lavoro originale di Winge, del 93, dove dice che nel 93 lui diceva che nell'arco di 30 anni avremo le capacità tecnologiche per creare una intelligenza superumana e immediatamente dopo l'era dell'umanità sarà finita in qualche modo, cioè l'era umana sarà finita. Si chiede se questo progresso, se questo obiettivo è evitabile e se non è evitabile, che cosa possiamo fare? Possiamo guidare gli eventi affinché l'umanità, cioè noi stessi, possiamo continuare a sopravvivere. E quindi, di nuovo, Winge cita diciamo, il concetto di superhuman intelligence, quindi di esplosione di intelligenza, ponendo subito qualche domanda di carattere etico che ci inchioda di fronte alle nostre responsabilità. Quindi non possiamo, secondo Winge, sottrarci diciamo, a ragionare attorno alle conseguenze di questo evento. Poi, 2001, Ray Kurzweil, la legge dei ritorni accelerati, e qui non posso far altro che, scusatemi se faccio un copia e incolla un po' brutale, e riportare il testo di questo breve testo di Ray Kurzweil, e soprattutto mi piace notare e sottolineare l'ultima frase in cui dice che sostanzialmente le conseguenze della singolarità devono essere valutate non sulla base delle nostre conoscenze attuali, ma immaginando, per quanto possibile, quali saranno le nostre capacità intellettive man mano che ci, come umanità evidentemente, man mano che ci avviciniamo alla singolarità. E cioè l'idea di Kurzweil è che l'umanità, gli esseri umani, diventeranno sempre più svegli, sempre più vastly smarter, dice lui, sempre più svegli man mano, e qui è importante leggere questa frase, man mano che ci immergiamo dentro la nostra stessa tecnologia, as we merge with our technology. E questo aspetto molto importante, cioè il fatto che l'immersione dell'umanità all'interno della propria tecnologia rende l'umanità sempre più intelligente, sempre più smart, sempre più in grado di comunicare e di, diciamo, velocizzare le proprie capacità cognitive. Poi passiamo, dopo questa brevissima escursione sulla singolarità, dove ho semplicemente citato alcuni spunti, alcune riflessioni dei padri, diciamo, due parole sul metaverso, cioè qualche piccola riflessione sul metaverso. C'è il link su Wikipedia. E anche in questo caso io non voglio dare una definizione del metaverso. La definizione del metaverso è quella di Neal Stephenson nel romanzo Snow Crash, dove pare, a quanto pare, per la prima volta viene usato questo termine, metaverso, da lui inventato, per descrivere il mondo online tridimensionale simulato dal software, dove il protagonista del romanzo, chiamato Hero Protagonist, imperversa con il suo katana, con la sua spada. Dal mio punto di vista, Snow Crash, scritto negli anni, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, è un romanzo, appunto, ma è per certi versi un documento di requisiti e specifiche funzionali per le aziende di software che vogliono costruire metaversi. Lindelab sicuramente si è grandemente ispirata a Snow Crash. Però in questa mia riflessione sul metaverso e la singolarità vorrei condividere solo alcune piccolissime riflessioni molto personali, e sottolineo questo aspetto, che non voglio far teoria accademia, voglio solo condividere con voi i miei pensieri assolutamente personali, assolutamente privati, ma mi piace condividerli e confrontarmi con voi. E quindi vado ancora più giù nella gerarchia delle idee, come potete vedere con le tre sfere verdi, e dal mio punto di vista il metaverso implementa, è un sistema di social networking innanzitutto, cioè un connettore di individui, di esseri umani, che implementa, se volete, i requisiti del manifesto illuminista, che riassumiamo, come tutti ben sappiamo, nello slogan libertà, uguaglianza, fraternità. Questa ovviamente è una provocazione, però mi piace vedere queste tre parole, questi tre obiettivi, questi tre valori, come un po' le tre leggi della robotica, no? Per il metaverso, le tre leggi della robotica di Asimov applicate però al metaverso. Libertà. Libertà. E la libertà nasce da questa constatazione, cioè che gli avatar all'interno del metaverso non possono non essere liberi, perché è scritto nel codice del sistema, è una regola del sistema. Dal punto di vista della libertà di movimento, ma è solo uno degli esempi, osserviamo come sia impossibile imprigionare un avatar, immobilizzarlo, confinarlo. La funzione d'onda di un avatar, cioè la densità di probabilità che l'avatar si trovi nei vari punti dello spazio, è molto distribuita, è molto diffusa, è molto più distribuita della funzione d'onda di un essere umano nel mondo reale. L'architettura del sistema garantisce la più ampia possibilità di movimento, e fornisce anche comodi mezzi di trasporto, quali il teleport o il volo libero. Faccio notare che nel disegno di metaverso di Neal Stephenson il teleport, il teletrasporto non era previsto nel disegno iniziale. Quindi libertà, la libertà è un requisito funzionale che è stato implementato, quindi è un dato di fatto. L'uguaglianza, gli avatar anche qui per definizione, per specifiche di sistema, sono tutti uguali. Gli avatar hanno la stessa forza, gli stessi poteri, le stesse caratteristiche. Non ci sono differenze di sesso, di religione, di razza, di età o di massa muscolare. Gli avatar differiscono solo per la propria rappresentazione grafica, che può essere fortemente personalizzata. Tutti gli avatar godono di pari opportunità nel metaverso. Gli avatars sono liberi di utilizzare tutte le risorse del sistema tramite le API, le funzioni che il sistema mette a disposizione. E queste funzioni sono uguali per tutti gli avatars. Quindi il metaverso, vedo che state crescendo però, mi sentite? Ah, scusate. Vedo che molti stanno crescendo, allora avevo paura di parlare un po' da solo. Vado velocemente alla conclusione. Dicevo che gli avatar, il metaverso è un sistema che è intrinsecamente meritocratico, perché tutti gli abitanti del metaverso, quando nascono, quando entrano nel metaverso, hanno la stessa dotazione di strumenti e di risorse. E quindi, per dirla con una battuta, nel metaverso non ci sono i raccomandati. Speriamo. La fraternità. La fraternità invece è una caratteristica che non è, ovviamente, per fortuna, fornita dal sistema. Non è implementata nel sistema. Però possiamo osservare questa condizione, la osserviamo noi quotidianamente nel nostro vulcano, il Lipari, la possiamo osservare in certe condizioni come una proprietà emergente del sistema umano all'interno del metaverso, che si realizza con la libera volontà dei residenti e delle dinamiche delle relazioni sociali. Avendo garantito a livello architetturale di sistema, e quindi in modo trasparente per gli avatars, la realizzazione dei primi due requisiti del manifesto illuminista, cioè la libertà e l'uguaglianza, queste sono date dal sistema. Non si può non essere uguali, non si può non essere liberi. Gli avatars a questo punto sono naturalmente portati a formare alleanze di tipo fraterno e conviviale. Gli avatars sono orientati ad aiutarsi reciprocamente e a sostenersi, perché non possono subire alcun danno derivante dalla vita sociale. E non hanno reali motivi per non fidarsi degli altri. Gli avatars condividono la propria conoscenza e interagiscono molto volentieri fra di loro. Non hanno nulla da perdere. Il metaverso che li contiene fornisce strutturalmente le condizioni necessarie affinché la fraternità si possa sviluppare. Questa secondo me è un grande vantaggio, un grande valore aggiunto del metaverso. Il metaverso è un sistema, un mondo, un contenitore in cui il livello di conflitto fra i soggetti che ci vivono dentro è estremamente basso, estremamente contenuto, proprio grazie a alcune regole del software che impediscono situazioni di potenziale conflitto. Questo è uno dei punti, secondo me, di forza di questa piattaforma. Poi il metaverso, dal mio punto di vista, è un ottimizzatore della comunicazione tra gli esseri umani. Qui direi salto completamente questo punto, perché lo potete trovare scritto in alcuni miei blog post precedenti, così come la citazione di Calvino, che a sua volta cita Bakhtin, lo studioso di Dostoevsky, riguardo il carnevale, e quindi l'idea, la descrizione che Bakhtin fa del carnevale è assolutamente ribaltabile sul metaverso o su Second Life o su Vulcano, perché se la rileggiamo assieme ci troviamo assolutamente, assolutamente in sintonia con queste parole e soprattutto con l'ultima frase che io ho citato nel mio blog, che è questa. E cioè che nel carnevale, secondo Bakhtin, ma direi io nel metaverso, è abolita qualsiasi distanza tra le persone, tra gli avatars, ed entra in vigore una particolare categoria carnevalesca, metaversesca direi, o metaversale, che è quella del libero contatto familiare tra gli uomini, cioè la fraternità. E qui c'è il link alla citazione di Calvino, e la mia conclusione sul metaverso è questa, cioè che il metaverso è innanzitutto un posto gradevole grazie Gabriz, dove le persone, gli avatar, le intelligenze naturali, le NGI, possono dimorare e prosperare. Il metaverso è un ambiente estremamente gradevole, estremamente rilassante, una sorta di paradiso terrestre costruito dai suoi residenti. Tutto questo, quello che ho detto sul metaverso, mi permette di ritornare alla singolarità tecnologica da un altro punto di vista, e cioè se la singolarità tecnologica è assimilata all'avvento della prima AGI, la prima Artificial General Intelligence, la possibilità, salto alle conclusioni per non tediarvi, perché poi ho comunque scritto tutto il dettaglio nel mio blog, la possibilità che noi si incontri, che la singolarità esploda nel metaverso tramite una incarnazione digitale, un embodiment digitale, è una possibilità estremamente importante per rispondere all'interrogativo inquietante di Werner Wing, e cioè che nel metaverso la AGI, la Artificial General Intelligence, nel momento in cui potrà anche lei accedere, entrare nel metaverso e incontrare tutti noi, nel metaverso anche la Artificial General Intelligence dovrà rispettare le leggi sociali del metaverso, cioè le tre leggi della robotica del metaverso, che io riprendo dall'illuminismo francese, cioè anche la AGI sarà vincolata a vivere, a operare all'interno di questa sandbox con la stessa forza e con le stesse possibilità operative degli esseri umani. Cioè, all'interno del metaverso, le AGI, le intelligenze artificiali e le intelligenze naturali giocano alla pari. Quindi il metaverso, e questa è la mia conclusione, può diventare uno sfondo integratore in grado di realizzare l'avvicinamento e forse l'amicizia, nel senso di fraternità, come ho detto prima, tra MGI ed AGI, per una singolarità, per così dire, dal volto umano, anzi, metaumano, oltreumano, superumano. Scusate se mi sono dilungato troppo e grazie per l'attenzione.